9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua in studio, INPS, quindi tema di giornata, chiamata all'800 24 00 24, sapete che per gli sms 349 238 6666, per la mail 9@radio24.it, e l'ospite di giornata, insieme poi ad altri due tecnici del settore che ci aiuteranno a formulare le giuste domande, ma l'ospite centrale della giornata è Antonio, ripeto Antonio, non Andrea, Antonio Mastrapasqua, presidente e commissario straordinario dell'INPS, che è in studio a Roma. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Allora, presento poi anche Elsa Fornero, che è professore ordinario di economia presso l'Università di Torino e direttore del Centro di Ricerca sulle Pensioni e le Politiche del Welfare a Torino. Buongiorno professoressa Fornero. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, Mastrapasqua, iniziamo da un pochino i punti cardine del suo bilancio di un anno dall'incarico straordinario, perché lei oggi sui giornali, come è giusto, i giornali la riprendono per la conferenza stampa che ha fatto ieri, innanzitutto per i numeri relativi all'aumento della cassa integrazione ordinaria richiesta e concessa. È chiaro che l'attenzione fondamentale del Paese è sugli effetti della crisi, però c'è... Vorremmo invece oggi occuparci del capitolo INPS in quanto tale. Allora, le chiedo, in meno di un anno lei ieri si presenta e dice: guardate, io tra minori uscite e maggiori entrate ho portato a casa risultati per 3,8 miliardi di euro. Allora, la prima domanda è: ma basta volerlo, visto che in meno di un anno si ottiene questo? Qual è la sua impressione? Naturalmente lei deve parlare in maniera istituzionale, mi aspetto giudizi non tagliati col coltello, però per far capire a chi ascolta, perché lei capisce che se in 11 mesi uno dice ma l'INPS che ho ricevuto è l'INPS oggi, ci sono 4 miliardi di risorse in più, fa un po' impressione o no? Guardi, con una battuta, più che basta volerlo, bisogna farlo. Ecco, per cui le buone intenzioni da parte di tanti sono tante. Io ho affrontato questo compito che mi ha dato il governo e ci tengo a dirlo anche il Parlamento. Sono l'unica persona votata all'unanimità nelle commissioni di Camera e Senato. Il compito che mi ha affidato il Parlamento era quello di attuare una drastica svolta dell'istituto. Ricordo che l'istituto è il più grande istituto pubblico europeo, il bilancio è di più di 550 miliardi di euro, incide per quasi il 20% sul PIL, struttura organizzata e efficiente, l'INPS è sempre stato portato a modello di efficienza. La dimostrazione di questo anno è che si può fare molto ma molto di più e riorganizzare un qualcosa che va comunque e già andava bene, e mi sembra che i numeri, i quasi 4 miliardi di cosiddetta piccola manovra dell'INPS di questo anno ne sono la dimostrazione. Oh, ci sono alcuni capitoli fondamentali per far capire meglio chi sta a casa, per cui si fa 4 miliardi. Cioè, ci sono un'enorme operazione fatta nel rendersi più efficienti nel recupero dei crediti dell'INPS. Poi c'è una decisione di accorpare le procedure e poi le decisioni anche di acquisto del procurement, come si usa dire. E quindi un'opera di riorganizzazione della struttura. E poi una riduzione degli assetti organizzativi, un bel po' di dirigenti tagliati di prima, di seconda fascia. E così via. Di queste tre funzioni, qual è la cosa più difficile? Recuperare i crediti oppure incidere il coltello nell'organizzazione interna? Perché immagino che l'organizzazione interna sia un nodo un po' complesso, per così dire. Ma guardi, io ho affrontato per primo il nodo interno. Nei primi 15 giorni ho ridotto i dirigenti generali di sede, pensi, erano 28 direttori generali, puoi immaginare 28 direttori, in 15 giorni a 12, abbassando l'età media da più di 63 anni a 46. Quindi ho fatto veramente una rivoluzione forte, non si erano ben resi conto forse al mio arrivo di cosa poteva succedere. E questo qui poi ha dato una forza di rinnovamento a tutta quanta la struttura che hanno tutti quanto recepito. L'esempio che lei faceva della centrale unica di acquisti, consideri che l'istituto spende di spesa corrente quasi 3 miliardi di euro ed erano quasi 170 i punti distribuiti sul territorio di spesa. Oggi ce n'è uno solo. Quest'anno abbiamo già risparmiato 130 milioni comprando come prima, forse anche più di prima, ma ovviamente è chiaro che il mettere a fattor comune le esigenze di spesa hanno dato questi risparmi. Senta, un altro degli aspetti, adesso procediamo un po' random, poi approfondiamo con la professoressa Fornera e il professor Vallacqua che ci ha anche raggiunto. Il professor Vallacqua insegna diritto di previdenza complementare e assicurazione presso la facoltà di giurisprudenza all'Università di Castellanza. Buongiorno professor Vallacqua. Buongiorno a voi. Ecco, salutiamo anche lei. Con Mastro Pasqua stiamo facendo un pochino un carotaggio dei diversi aspetti del suo primo anno di bilancio di presidenza. Un'altra delle cose che più mi ha colpito, Mastro Pasqua, è stato l'effetto complessivo di sistema che c'è da una cosa che apparentemente uno pensa è banale, ma poi il problema è appunto farla, cioè la messa in rete interfacciando banche dati, cioè tra quelle dell'INPS, dell'amministrazione fiscale e così via. Sembra una cosa banale visto che il computer esiste da anni, ma il problema è poi quello che si può ottenere davvero quando si fanno parlare insieme queste banche dati. Ma vede, la pubblica amministrazione, io sono un manager privato che tornerà al privato, ragiona in un modo abbastanza singolare, quindi di tutela e di difesa dei propri piccoli grandi interessi. Quindi ogni ente si mette i sacchetti di sabbia, non parlerà mai con l'altro, scrive quelle lettere famose, codesto ufficio a questo ufficio, parla a quell'ufficio e tutto rimane polveroso. La fortuna è stata, e la mia volontà è stata di quella di dire apriamo l'INPS con una sinergia con tutti. Io quest'anno ho stipulato 60 convenzioni, la più importante ovviamente è quella con l'Agenzia delle Entrate, ma quella con la SIAE, quella con l'Agenzia del Territorio, mettendo a fattor comune le banche dati e le conoscenze di tutti quanti noi. I risultati sono incredibili. Noi con la lotta all'evasione, gli accertamenti, la possibilità, le faccio un esempio rapidissimo, noi spedivamo fino a quest'anno compreso 9 milioni di lettere a tutti i pensionati che hanno bisogno delle integrazioni, a tutti gli invalidi civili, chiedendo i loro redditi. Immaginate, scrivevamo ai miei pensionati per sapere quello che il mio vicino, l'Agenzia delle Entrate, sapeva. Dal prossimo anno non mandiamo più una lettera, l'Agenzia delle Entrate ci manda un file, lo leggiamo e sappiamo se hanno meno diritto alle integrazioni. Pensi solo dal punto di vista dell'efficienza, del disturbo che non diamo alle persone, della precisione. Le persone devono andare presso le nostre sedi a fare delle autocertificazioni, portare i documenti, lo sapeva il mio vicino. E direi che così anche si fa un passo per recuperare botte di contributi dell'ordine di 1,5 miliardi, che insomma non sono pochi, e si diminuiscono i tempi di attesa, eccetera, eccetera. Naturalmente, detto tutto questo, sembra che adesso l'INPS sia entrata in una specie di era della perfezione realizzata. Però quello che mi interessava capire era se lei ha colto anche all'interno della struttura delle resistenze. Non le chiedo perché le do per scontate ed è giusto che il presidente commissario non si fermi sulle resistenze, però l'atmosfera che ha colto lascia sperare che nella pubblica amministrazione poi ci sono non solo delle isole ma delle fasce che di fronte alla novità di messa a sistema di nuovi procedimenti eccetera dicono finalmente tirano fuori l'energia, oppure come immaginano tanti cittadini poi l'INPS è un posto di... No, ma guardi, io registro, ma non perché ne sono oggi la guida, con estrema obiettività, è cambiato un clima. Io ho fatto una cosa più volte che non si era mai fatta nell'istituto. Noi abbiamo una rete che può dialogare con tutte le nostre sedi, noi abbiamo più di 700 sedi sul territorio, 30.000 dipendenti. Beh, io più volte ho fatto delle videoconferenze con tutti parlando con i miei dipendenti. Prima il presidente dell'INPS era qua un'entità astratta che si vedeva non so quando va al Quirinale e non era una persona vicina. Abbiamo parlato, abbiamo discusso, stiamo cercando di motivarli, andiamo sul territorio, ho visitato quasi già il 50% delle sedi, vedo una risposta vera. Immagini una cosa, quest'anno noi abbiamo circa il 6% di meno di lavoratori, col blocco del turnover le persone vanno in pensione. Abbiamo una produttività, quindi la produzione misurata sui pezzi lavorati dell'istituto, di quasi il 10% di più. Quindi immagini, 5% in meno di lavoratori, 10% in più di efficienza della macchina. Quindi... Temo che ce ne sia bisogno se si ricorda chi è a casa che un terzo e un quarto di tutte le cause civili del nostro paese è all'INPS di mezzo. Sì, diciamo quasi il 50%. Diciamo. Quindi insomma, anche solo nell'arretrato da smaltire, nella gestione degli avvocati, eccetera, eccetera, ce n'è di passi avanti. Però pensi, dottore, una bella notizia. Noi abbiamo sempre avuto una soccombenza percentuale maggiore, quindi perdevamo sempre intorno al 55% delle cause e ne vincevamo ovviamente la differenza opposta. Per la prima volta in questo anno, ma non dico è merito di Mastro Pasqua, ci mancherebbe, è di un clima ed è merito degli avvocati ed è merito dei dipendenti, abbiamo invertito, dopo quasi 50 anni, adesso in questo anno abbiamo registrato un 53% di vittorie e un 47% di sconfitte, quindi c'è proprio un clima diverso. Ahia, perché questo naturalmente per chi è a caso significa che a perdere di più sono i cittadini che facevano opposizione o ricorso, però questo significa che poi c'è un eccesso di contenzioso in generale nella vita italiana, e forse ci sono dei comparti in cui, penso all'invalidità, bisogna un po' cambiare registro. Ecco, adesso, fatto un pochino queste osservazioni di ordine generale, iniziamo un pochino a fare le domande ai nostri ospiti. Professoressa Fornero, dovesse lei individuare un paio di punti da affidare al commissario Pastrapasqua, da quali comincerebbe per un INPS più in equilibrio con i conti intergenerazionali e che ci preoccupi di meno per l'equilibrio di sostenibilità di medio-lungo periodo dei conti previdenziali? Beh, lei ha toccato esattamente il punto. Tutte le cose di cui Pasqua ha parlato attengono al piano dell'organizzazione, e come cittadini dobbiamo complimentarci per un'istituzione pubblica, in particolare così importante come l'INPS, se realizza maggiore efficienza, maggiore vicinanza con i cittadini, minori costi, maggiore capacità di risposta, perché non dimentichiamoci che una delle lamentele, per esempio, era il fatto che le pensioni, una volta che la persona andava in pensione, venivano liquidate con ritardi inammissibili. Tutto questo va bene, vorrei solo dire, ma senza che questo suoni assolutamente polemica, io mi complimento sempre con le persone che hanno capacità di lavoro e la mostrano coi fatti, vorrei solo dire che questa operazione di miglioramento dell'efficienza dell'INPS era in corso già da diversi anni. Dirò poi una cosa sull'avanzo di bilancio, su quei 3,8 miliardi, che è molto importante. Ma l'altra cosa che interessa gli italiani è, diciamo così, il disegno, l'architettura, la casa INPS. Adesso l'abbiamo messa a posto da un punto di vista di funzionamento quotidiano, benissimo, ma siamo sicuri che starà in piedi? Siamo sicuri che l'architettura previdenziale pensionistica funzionerà? Ora io dico, questo non è veramente un compito dell'INPS, perché l'INPS funziona sulla base di norme e quindi è il legislatore che qui fa le cose ben fatte oppure mal fatte, e l'INPS in un certo senso deve eseguire questo, deve pagare le pensioni secondo le norme e deve raccogliere i contributi sempre secondo le norme. Sotto questo profilo però di disegno, lei ha detto di sostenibilità, diciamo anche di adeguatezza delle pensioni nel lungo termine, e qualche preoccupazione c'è. Noi possiamo anche sentirci contenti degli avanzi realizzati, ma gli occhiali con cui dobbiamo guardare il sistema pensionistico sono esattamente gli occhiali di lungo periodo, sono esattamente quelli di quelli che oggi hanno, che so io, 20-30 anni e pagano, dicendo quasi tutti, nel senso di tradire una sfiducia, beh tanto nessuno mi restituirà questi soldi, o sono gli occhiali di chi magari è nella età intermedia, che vede con preoccupazione a importi ridotti delle pensioni, o a quelli che in una situazione di crisi possono avere accesso alla pensione, ma magari pensano che continuare dia loro una maggiore sicurezza in più. Quindi gli occhiali sono quelli di chi guarda la sicurezza economica nell'età anziana. Sotto questo profilo, ma ripeto, non è qualcosa che stia nelle competenze dell'INPS, perché si tratta del legislatore, di chi fa il disegno, sotto questo profilo ci sono ancora elementi di preoccupazione. Mentre forse lei voleva aggiungere, aveva detto un inciso sulla questione dell'avanzo e del contributo della fiscalità generale, insomma l'equilibrio dei conti dell'INPS. Esattamente, tutti gli italiani sanno che l'INPS non funziona come una compagnia d'assicurazione, è un sistema pubblico, e il sistema pubblico può funzionare secondo un meccanismo molto semplice che dice: i lavoratori oggi attivi pagano i loro contributi e l'INPS usa immediatamente questi soldi per pagare le pensioni, cioè non mette i soldi da parte, i soldi che pago io, che paga lei, che pagano i lavoratori, non sono messi da parte e poi accantonati per farli rendere qualcosa e trasformati in pensione al momento in cui ci si ritira. No, i soldi sono presi, usati dall'INPS per pagare le pensioni subito. Questo è un meccanismo di finanziamento che si può fare perché il sistema è pubblico e perché lo Stato dice sostanzialmente ai giovani: non preoccupatevi, oggi i vostri soldi noi li usiamo per pagare le pensioni, ma domani ci saranno altri giovani che pagheranno anch'essi i contributi e io userò quei soldi per pagare le vostre pensioni. Cioè c'è quello che si chiama proprio un contratto tra le generazioni. I giovani di oggi confidano che quelli che saranno giovani domani, quando loro non saranno più giovani, saranno in pensione, continueranno, proprio perché lo Stato è garante di questo contratto, a pagare le pensioni. Questo meccanismo che sgancia i contributi e l'accumulazione dal pagamento delle pensioni è in effetti il nostro meccanismo finanziario. Ora, se ci sono, diciamo, ci sono state fatte molte cose in questi anni per ritardare i pensionamenti, e questo è giusto, è stato giusto, perché uno dei problemi italiani era in effetti la bassa età di pensionamento. E sono state fatte molte azioni per incoraggiare chi ha, per esempio, un lavoro non di quelli che si chiamano atipici, per pagare contributi che una volta venivano pagati in misura inferiore. Sono state aumentate le aliquote di molte categorie lavorative. Tutto questo porta dentro soldi, perché se oggi, per assurdo, si dicesse che l'aliquota contributiva dei lavoratori dipendenti, anziché essere 33, viene aumentata al 40%, l'INPS di soldi ne riceve tanti e fa tanti avanzi, fa un avanzo molto alto. Il problema è che se io dico a uno di pagare il 40%, domani gli prometto una pensione commisurata a quel 40%, quindi gli prometto una pensione più alta. Quindi l'equilibrio, il fatto che se io oggi obbligo la gente a pagare, e quindi pagano quelli che prima non pagavano, mentre i pensionati tra oggi e domani non è che possono cambiare di numero e le pensioni non cambiano di importo, allora entrano tanti soldi nelle casse dell'INPS. Però attenzione, questo vuol dire che domani io dovrò pagare delle pensioni commisurate a quei contributi. E la domanda è: avrò i soldi? Cioè, la capacità di imposizione sui giovani di domani basterà a pagare le pensioni che io oggi sto promettendo, oppure non sto caricando i giovani di domani di un eccesso di contribuzione? Questa è la domanda vera che bisogna fare. Ne interrompo, professoressa Fornero, per girare a Mastrapasqua, avvisando il presidente Mastrapasqua che c'è una reazione molto mista dei nostri ascoltatori con gli sms, perché metà, come puntualmente avviene, ma non mi stupisco di questo, anzi è il bello della diretta, mi insulta perché dice che sono troppo proclive a dire quanto è bello il presidente, quanto è bravo il presidente. L'altra metà, cosa molto interessante, al pari della prima, che rispetto, dice invece: ah, Giannino, per una volta lei ci cita un manager del settore pubblico che fa buone cose, e quindi vuol dire che lei è disposto anche a ricredersi. Io sono noto per essere, diciamo, non eccessivamente entusiasta del ruolo della mano pubblica, neanche per organizzare le pensioni. Io devo dire la verità, mi piacciono i sistemi contributivi in cui c'è molto privato, rispetto all'eccesso di promesse dei sistemi pubblici poi mal mantenute, perché poi vengono dei momenti in cui, come diceva la professoressa Fornero, bisogna adeguare ciò che si raccoglie a ciò che si è promesso, e di solito lo si fa nei passaggi, a quel punto, da sistemi da pay as you go a sistemi contributivi, intervenendo con una grande frattura tra ciò che si è dato per decenni ai lavoratori che andavano in pensione e tra ciò che si darà a quelli che sperimenteranno a pieno regime, nel nostro caso la riforma Dini, che avranno tassi di sostituzione molto ma molto ma molto più bassi di quelli di tutte le generazioni precedenti. E mi chiedo, in definitiva è più giusto, ma mi chiedo anche se poi sia del tutto giusto. Tutto questo per dire, presidente Mastrapasqua, che almeno alcuni degli interrogativi, sia pur non dipendendo da lei e dall'INPS, la sostenibilità di medio periodo, ma lei se la sente di dire oggi ai lavoratori giovani, eccetera eccetera, confidate ci sarà per voi? Ma io ovviamente, come diceva anche sia lei che la professoressa Fornero, le scelte di politica previdenziale le fa ovviamente il governo e successivamente il Parlamento, sempre e comunque d'accordo con le parti sociali. Ma io valuto quello che sono le attuali proiezioni, la cosiddetta sostenibilità del sistema, c'è la famosa gobba nel 2038 o giù di lì. Mi piace sottolineare che ci sono due componenti. Da una parte c'è la necessaria e doverosa efficienza del sistema, perché è vero che questi miliardi di oggi possono non bastare nel domani, è meglio comunque mettere fieno in cascina che non farlo, è meglio comunque fare una sorta di educazione previdenziale, questa io ho detto fin dal primo giorno, perché quello che diceva prima la professoressa, tanta gente dice ma chissà se le rivedrò, e quindi si alimenta il nero, si alimenta la sfiducia verso una previdenza. Credo che oggi invece con una doverosa educazione previdenziale ci sia anche forse un allargamento della base delle persone che, non scordiamo, gli evasori fiscali sono anche evasori contributivi. Dall'altra, necessariamente e doverosamente abbiamo la garanzia dello Stato, per cui lo Stato nel sistema attuale garantisce le pensioni di oggi, garantisce l'assistenza di oggi, garantirà l'assistenza e la previdenza di domani. Ancora mi piace dire che ovviamente elencando le cose che ha fatto sia i governi precedenti che quelli attuali, noi abbiamo il 1° gennaio dell'anno prossimo la revisione dei coefficienti di trasformazione, quindi anche questo comunque sarà un incentivo verso la posticipazione del momento in cui si va in pensione, perché sarà una scelta del cittadino ovviamente confrontarsi sulle possibilità e sui rendimenti della propria pensione. Ma soprattutto, mi spiace che negli strilli quotidiani sulle cose che succedono questa sia passata in secondo piano, ma nella manovra anticrisi approvata dal Parlamento ad agosto c'è un articolo che io ritengo rivoluzionario, che oggi ancora nessuno ci dedica attenzione perché lo vede distante, ma la previdenza non è qualcosa che si fa oggi per il domani, ma si fa ovviamente con passi più rallentati. Chissà, è la riforma che dal 2015, in base all'aspettativa di vita certificata dall'Istat, quindi non più una trattativa estenuante, fa sì che nel primo quinquennio si sposti in avanti di 3 mesi, ma dal secondo quinquennio in poi si sposti in avanti della realtà dell'aspettativa di vita. Noi stiamo facendo delle elaborazioni molto prudenti, molto soppesate, perché nessuno oggi ancora ha detto cosa vale questo articolo messo nel decreto anticrisi, ma si parla di cose incredibilmente interessanti, perché comunque influenzerà sia le pensioni di anzianità ma anche le pensioni di vecchiaia. E speriamo solo che quando sarà un po' più chiaro di quale protrazione per il tetto di pensionabilità si parla, non si pensi a cambiare, a fare marcia indietro, perché sarebbe secondo me sciagurato. Eccoci tornati in studio e riprendiamo un pochino con un altro aspetto dell'universo di coloro, ricordava prima la professoressa Fornero, che sono stati chiamati in questi anni a crescenti contributi, cioè a crescenti sostegni alla sostenibilità del nostro welfare, cioè appunto gli atipici, gli autonomi, eccetera, eccetera. E paradossalmente uno degli aspetti meno richiamato agli occhi dei lavoratori dipendenti, che sono sempre così pronti a considerare da una parte la precarietà degli atipici e dall'altra il fatto che non contribuiscono abbastanza, e beh, sono proprio loro che poi con le loro gestioni alimentano molte gestioni dei lavoratori dipendenti che invece sono in deficit. Penso a gestioni di comparti come gli elettrici, i telefonici, i dirigenti. Professor Vallacqua, da questo punto di vista come siamo messi in questa specie di bilancio equitativo comparato dei contributi di ciascuna diversa figura alla sostenibilità del nostro istituto pubblico? Ma guardi, in termini di adeguatezza delle prestazioni, direi che sicuramente gli atipici, piuttosto che i soggetti che hanno metodi di calcolo contributivo, sono quelli che più devono preoccuparsi. Però mi sembrava interessante il ragionamento che faceva il presidente dell'INPS, ma anche la professoressa Fornero, sul concetto di adeguatezza, nel senso che ci si è preoccupati, a mio avviso, negli scorsi anni in maniera eccessiva nel pubblicizzare delle scelte verso la previdenza complementare, cioè la scelta sul TFR alle forme di previdenza complementare, e poco nel pubblicizzare invece qual è il reale tasso di sostituzione, cioè quale sarà la pensione a scadenza che ciascuna categoria di lavoratori avrà. Da questo punto di vista sarebbe interessante capire a che punto è il progetto sulla cosiddetta busta arancione, cioè su su quel documento che l'INPS dovrebbe poi inviare a casa di ciascun italiano, dove sostanzialmente si è in grado di valutare quale sarà effettivamente la propria pensione a scadenza, e sostanzialmente cercare anche di valutare le scelte anche in un'ottica di integrazione alla pensione pubblica con altre forme di previdenza complementare. Quanto poi alla, diciamo, alla situazione degli atipici, quello che rilevo è, diciamo, atipici intendo contratti a progetto piuttosto che contratti caratterizzati da una saltuarietà nell'attività lavorativa, sicuramente a fronte di una bassa propensione, diciamo, anzi dei bassi livelli futuri probabilmente di prestazione previdenziale, si scontrano delle riforme che sono state fatte in questi anni basate su una previdenza complementare che si basa sul TFR e che non copre in particolar modo chi il TFR non ha. E quindi vedrei molto interessante un ragionamento che come dire, aiuti questi soggetti anche a integrare la propria previdenza. Ad esempio, sicuramente è diciamo un qualcosa che troverebbe un ostacolo notevole a livello di così rappresentanze datoriali, ma l'estensione ad esempio del TFR anche con una modifica legislativa a quei soggetti che attualmente non l'hanno, ad esempio i contratti a progetto, piuttosto che un ragionamento più complesso sul ruolo che le regioni possono avere anche per effetto della riforma costituzionale nell'incentivare e nell'aiutare le categorie più deboli. Sicuramente ci sono regioni che già lo fanno, come il Veneto, come diciamo il Trentino Alto Adige, però secondo me si potrebbe anche ragionare in una sorta di trade-off di welfare mix, cioè spesso si parla di efficienza o nella sanità o di riduzione della spesa previdenziale. Secondo me si potrebbe anche ragionare dicendo una sanità efficiente con dei tagli e con dei risparmi che però vengono utilizzati per dirottare, diciamo, maggiori finanziamenti a favore delle categorie così più deboli sotto il profilo previdenziale. Più scoperte. Sì. Professor Vallacqua, la interrompo un secondo perché oltre a girare questo blocco di interrogativi che riguarda le categorie, diciamo, un po' più deboli, appunto gli atipici e così via, e alle prestazioni a cui hanno diritto rispetto a quello che invece contribuiscono all'INPS, le devo girare una domanda che è molto anche raccoglie molti sostenitori tra i nostri ascoltatori a Mastra Pasqua. Molti sono rimasti colpiti leggendo in questi giorni sul totale delle risorse raccolte dal sistema delle imprese per finanziare il sistema della cassa integrazione e quanto poi queste risorse siano in realtà sottoutilizzate ancora oggi, malgrado l'esplosione da cui siamo partiti all'inizio di trasmissione, cioè in questo 2009 della cassa integrazione ordinaria e straordinaria richiesta e autorizzata. E quindi molti ci chiedono: ma che fine fanno questo eccesso di risorse non utilizzate nemmeno nei momenti di picco della crisi? Ma dunque, il sistema dei fondi, delle gestioni dell'INPS è un sistema solidale, quindi e questa è una cosa bella. Quindi, se ci sono delle gestioni in passivo, le altre prestano i soldi regolamentati attraverso proprio delle modalità amministrative remunerate anche con dei tassi di interesse per sostenere le parti più deboli. Quindi non solo lo Stato pensa all'INPS nel momento in cui ha delle difficoltà finanziarie, ma anche all'interno delle più di 30 gestioni che l'INPS amministra, se ci sono dei momenti di debolezza di una gestione, chi invece è più in salute presta i soldi all'altra. Quindi questo qui è un sistema che sta dando i suoi frutti, perché a seconda dei momenti storici, la proiezione dei decenni ovviamente fa sì che ci stanno anche dei momenti diversi nel corso degli anni, questo qui riesce a dare una solidarietà tra tutte quante le gestioni. Un altro aspetto invece che viene sollevato, lo facciamo dire da Stefano da Milano, perché ero tentato di saltare tutte le telefonate degli ascoltatori, però un po' significa forzare la natura della trasmissione, quindi Stefano da Milano, prego. Sì, pronto, buongiorno. Sì, lei ha un aspetto particolare, la prego di stare solo su quello per vedere un po' poi cosa ne pensa Mastra Pasqua e la Fornero. Va benissimo. Allora, io dico semplicemente questo, che una volta c'era una media di 3 lavoratori e un pensionato, non solo, ma i 3 lavoratori lavoravano per 35-40 anni e percepivano pochi anni di pensione perché morivano presto, la vita era più breve. Adesso si inizia a lavorare a 25, 26, 27 anni, si lavora quindi meno anni, ma soprattutto si vive molti più anni da quando si va in pensione. E una cosa da non sottolineare è anche questa, che adesso ci sono una qualità della vita superiore, quindi mio padre a 70-75 anni prende l'aereo e va in vacanza, quindi delle spese superiori, e molti come dire, tentazioni, perché la televisione, i giornali mettono comunque quotidianamente delle tentazioni in termini di possibilità di acquisti, il televisore a plasma piuttosto che il cellulare, il computer, cosa che 30-40 anni fa erano immaginabili come spese. Ma lei che figura contributiva ha? Io sono artigiano. Ah, ecco, e da questo punto di vista si ritiene soddisfatto tra quello che paga e quello che avrà? No, io penso di non avere proprio niente. E penso che quelli della mia età, io ho 45 anni, la pensione non ce l'avranno mai. Perché non ci sarà più nessuno che pagherà la mia pensione. Lei paga il di contributi, quanto paga in percentuale? Pago il 30%. Ecco, le faccio questa domanda e la ringrazio, signor Milano, perché io sono convinto che la maggior parte dei lavoratori italiani ignori quanto paga di contributi e come si ripartisce il carico dei contributi tra carico del lavoratore, sia esso un dipendente o sia naturalmente un lavoro autonomo, e poi l'impresa nel caso in cui appunto si tratti di lavoro dipendente. Io penso che queste cose fondamentali, come le aliquote che lo Stato ci chiede di pagare, soprattutto per i lavoratori dipendenti, in realtà 8 volte su 10 i lavoratori non sanno a chi si ripartiscono e in che peso. E questo è un problema serio, perché se non lo sapete tutti voi che siete a casa, come diavolo siete poi in grado davvero di farvi i conti quando entreremo con la Dini in un sistema in cui sarà ciò che si è accantonato e investito ciò che ripagherà il vostro e alimenterà la vostra pensione? Come farete a fare il conto se non vi sarà stato chiaro quanto è stato il vostro contributo al sistema? Quindi informiamoci tutti un pochino di più, oltre che lamentarci di come vanno le cose, perché una migliore informazione è il requisito per esercitare meglio i propri diritti o per chiedere eventuali cambiamenti al legislatore, non al presidente dell'INPS in carica pro tempore. Eccoci tornati in studio, siamo con il presidente commissario dell'INPS Antonio Mastrapasqua, poi con la professoressa Elsa Fornero, col professor Francesco Vallacqua, e tocchiamo uno dei punti classici che da anni, di volta in volta, quando si parla dell'INPS e dell'equilibrio dei suoi conti, di come vengono finanziati e dell'attivo, per così dire, di bilancio dell'INPS, regolarmente scatta nel nostro paese, perché si dice: ah, ma poi nell'INPS devono convivere le prestazioni previdenziali rispetto a quelle invece assistenziali, e il fatto che vengano entrambe tenute sotto uno stesso ombrello, quello che poi consente a molti, tipo quelli come me, i cattivi come me, di dire che poi in realtà l'INPS si regge grazie al contributo della fiscalità generale e quindi in realtà perde, mentre invece se si procedesse a una separazione delle due funzioni sarebbe più inattivo, e quindi è un eccessivo l'allarme di chi dice che bisogna intervenire, come diceva anche la professoressa Fornero, con un'ottica di medio periodo, di lungo periodo sulla sostenibilità non solo dei conti dell'INPS ma anche di giustizia intergenerazionale. Fornero, dovesse dire lei come si separa questa famosa questione italiana tra assistenza e previdenza, e chi ha torto e chi ha ragione tra chi dice che questa commissione in realtà non ci deve impedire di far vedere che poi è il contributo della fiscalità generale a reggere ciò che altrimenti è in deficit, e cedo, sono un po' troppo cattivo a ricordarlo sempre, lei che dice? No, secondo me è molto importante, e direi però anche che sotto questo profilo si sono fatti molti passi dal punto di vista normativo. La questione è abbastanza semplice. Supponiamo, anche se poi nella realtà le cose sono più complesse e la complessità non va mai dimenticata, ma supponiamo che si dica come paese: beh, le pensioni sono, come dire, il reddito che ti assiste quando hai smesso di lavorare perché sei anziano. Non hanno a che fare con compiti assistenziali per coloro che hanno, supponiamo, problemi di salute, problemi di handicap fisici, problemi di disabilità e così via. Quello è un altro capitolo di spesa pubblica, e questa è la separazione tra previdenza e assistenza. Ma se è così, la pensione è molto facilmente calcolata, perché si dice: quanto hai pagato nel corso della tua vita lavorativa? Sono i contributi. E qui aggiungo un inciso a quello che diceva lei prima, la separazione tra ciò che paga il lavoratore, che grosso modo nel caso di lavoratori dipendenti è 25% del reddito lordo, a cui si aggiungono, ciò che paga l'impresa, esatto, che sono 25, e gli 8 punti che paga il lavoratore. Guardi che però questi sono tutti a carico del lavoratore, perché il costo del del lavoro è ciò che l'impresa guarda. Sì, sì, non c'è dubbio. Ecco, quindi questo, il lavoratore paga il 33, anche se 25 punti di questi 33 sono formalmente a carico del suo datore di lavoro. Ma il punto è che si prendono i contributi, si vede quel rendimento vero o fittizio che è la crescita del PIL nel sistema pubblico che è loro attribuito correttamente, si dice qual è il tuo gruzzolo, il capitale che hai accumulato quando hai l'età per andare in pensione, e si trasforma quello in una pensione. Bisogna ridurre, e in parte è stato fatto, l'interferenza politica nella determinazione delle pensioni, perché l'interferenza politica, ci sono tanti, tantissimi esempi che lo dimostrano, finisce sempre per parlare di solidarietà, ma finisce sempre per creare dei privilegi. Alla fine la solidarietà è qualcosa che alla politica, dentro la politica, è molto popolare, ma che nei fatti traduce sempre qualche privilegio. No, è una... Professoressa, lei deve lasciare che io le faccia una specie di dichiarazione d'amore, non improprio, perché lei veste di un linguaggio assolutamente corretto e che chi ascolta identifica immediatamente con la ragione di un grande equilibrio delle staffilate che in bocca a me, noto provocatore liberista, invece passano come estremismo. Io sono completamente d'accordo con lei, bisognerebbe introdurre delle finestre temporali nelle quali la politica solo allora può introdurre qualche modifica nei regimi previdenziali, così ci pensa meglio, punto numero uno, e si occupa solo dei grandi cambi di sistema, e secondo, e si concentra sui principi generali, perché altrimenti veda veramente la storia degli interventi random è sempre una storia che in nome di quello che lei ci ricordava, principi generali, finisce per introdurre differenziazioni insopportabili di regimi. Siccome il tempo avanza, volevo risentire da Mastro Pasqua un po' di considerazioni su tutti i punti che abbiamo intanto toccato, ma la pregherei anche di toccare una delle questioni che è molto sollevata da tutti gli sms che ricevo, le pensioni, i trattamenti, mi perdoni, di invalidità, perché questa, lei lo sa, è una delle classiche questioni in cui l'Italia è spaccata a metà, ci sono delle percentuali più elevate concentrate in alcune regioni i trattamenti di invalidità di fatto hanno storicamente corrisposto dei trasferimenti a sostegno dei redditi, al di là dei titoli e della regolarità di quelle percentuali così più elevate che nel resto del paese, che pure lavora e anzi lavora un po' di più perché ha più lavoro, non perché abbia più voglia di lavorare. Ho visto che tra i suoi impegni c'è l'abbattimento dei tempi per rispondere alle domande che vengono inoltrate all'INPS per questo tipo di trattamenti, quindi le cedo la parola per sapere se avremo ancora più rapidamente ancora più trattamenti di invalidità con gli stessi criteri di prima, o li avremo più rapidamente ma con un criterio un pochino più severo nella concessione. Ma guardi, innanzitutto mi faceva piacere rispondere al signor Stefano di Milano. Senz'altro il rapporto 3-1 si sta andando a modificare, però ritengo che estremizzare e dire io non prenderò nulla è un atteggiamento catastrofico che non ritengo che oggi, dalle proiezioni, da qualsiasi tipo di curva, da qualsiasi tipo di valutazione si possa andare a dire, e quindi posso assicurare anche dalla mia posizione una serenità e tranquillità nell'affrontare questo. Il professor Vallacqua parlava della busta arancione. Noi abbiamo preso un impegno con il governo, il casellario degli attivi, cosiddetto, brutto termine, e presso l'INPS noi entro il primo semestre vorremmo realizzare la famosa busta arancione. La busta arancione, ricordo, è la somma di tutto quello che una persona ha pagato di contributi ovunque è stato. È difficile perché non solo è l'INPS, ma sono le più di 30 casse privatizzate, l'INPS, DAP e l'ENPALS, quindi mettere a fattor comune tutte le banche dati, stiamo facendo uno sforzo enorme, senz'altro lo andremo a realizzare. Altro aspetto, la trasparenza. E io ho fatto vari incontri con i miei uffici e nel prossimo futuro, ma parlo nei prossimi settimane, massimo un mese, stiamo elaborando una possibilità di comunicare a tutti i dipendenti attivi dell'INPS, quindi a milioni e milioni, parliamo di più di 20 milioni di persone, vorremmo tentare di farlo mensilmente anche attraverso la PEC, la posta elettronica certificata, altrimenti ci sarebbe un costo mostruoso come potete immaginare. Mensilmente quello che il datore di lavoro e il dipendente hanno accantonato, quello che mi è stato pagato, questo qui da una parte è un sistema di trasparenza, dall'altra anche di controllo reciproco, perché molto spesso i dipendenti non sanno che i propri datori di lavoro non pagano i contributi o comunque, non dico che si crea un conflitto di interessi, ma certo, si crea comunque senz'altro un obiettivo. Lo stiamo realizzando, stiamo ragionando come farlo, perché è comunque una mole di dati e di incredibile capacità organizzativa, ma credo che questo possa e debba servire a una maggiore trasparenza nei rapporti. Infine l'invalidità. Io sono arrivato con una legge approvata dal Parlamento che mi obbligava a fare 200.000 verifiche straordinarie durante quest'anno, le stiamo facendo, la percentuale di revoche è cosiddetta alta, 10, 12, 13, non mi sono mai appassionato al cieco che guida o alla persona che corre la maratona con l'handicap alle gambe, perché credo che sia un'esercitazione inutile. Quello che ho fatto convincendo il governo e poi il Parlamento è dire basta guardare indietro, perché se io ne faccio 200.000 l'anno di verifiche ma nel frattempo le regioni me ne sfornano 500.000, credo che sia una battaglia abbastanza impari. Ricordo a tutti che le regioni e le ASL dicono di pagare, l'INPS paga, quindi credo che una situazione bellissima dove uno dice di pagare e un altro paga non si è mai vista nel nostro paese, è per questo che c'è abbastanza manica larga. La riforma fatta nel decreto anticrisi di agosto prevede proprio totalmente la riforma dell'invalidità. Dopo più di 24 anni ci sta un articolo, articolo 20 del decreto, da me scritto, da me fortemente voluto, combattuto sia contro ovviamente alcune resistenze che c'erano sia nel Parlamento, è quello di innanzitutto un medico dell'INPS siede nella commissione. La domanda si fa all'INPS in via elettronica. Immaginate che oggi mi dicono che per avere un appuntamento alla ASL c'è da fare una trafila che non sempre è piena di nobiltà. Noi riceveremo una domanda in via elettronica, fisseremo contestualmente la data dell'appuntamento, immaginate, faremo la visita con un nostro medico, a noi spetta la concessione ultima, non più alla ASL, noi stileremo e noi pagheremo. L'assicurazione che abbiamo voluto dare nel testo del provvedimento approvato dal Parlamento è di fare il tutto entro 120 giorni. Immaginate che oggi ci sono regioni virtuose, alcune al nord, in Sicilia ci vogliono più di 24 mesi per avere l'impressione di invalidità, con più di 12 passaggi amministrativi. Immaginate cos'è questa riforma, stiamo impegnati per riuscirla a fare, credo che questo sia una civiltà non tanto per sconfiggere i falsi invalidi quanto per dare le giuste considerazioni economiche e anche di assistenza ai veri invalidi. Un inciso, oggi gli invalidi sono 2,5 milioni. La spesa è più di 15 miliardi di euro. Nel 2009 la proiezione a legislazione diciamo passata è di circa 3 milioni di persone invalidi e più di 16 miliardi di costo. Immaginate che cifra. Mettere le mani lì vuol dire anche mettere le mani in una serie di attenzioni particolari da parte di tanti. Lo faremo, siamo impegnati a farlo e speriamo di avere il conforto di tutti, perché e non sarà facile. Significa anche avere, insomma, chiedere dai sindacati, cui patronati su questo e sulle stesse pratiche dell'iter hanno un ruolo, insomma, in una parte Italia molto rilevante, chiedere delle discontinuità, perché le discontinuità non bisogna in questo caso, in caso chiederlo solo alla macchina pubblica che gestisce e poi decide naturalmente dell'iter, ma in questo caso, visto come funziona in Italia proprio l'iter di progresso delle richieste, anche e soprattutto la parte della società civile che è implicata in questo delicato settore, che contribuisce anch'esso alla sostenibilità dei conti pubblici in materia di assistenza e previdenza. A me, a questo punto, dopo aver detto che tantissime, ma era inevitabile, sono gli argomenti che non abbiamo raccolto tra le tante segnalazioni fatteci dagli ascoltatori, però mi piace dire che Antonio Mastrapasqua, secondo me, io spero che continui con la stessa decisione, viene dal privato, tornerà al privato, ha detto, però un pochino di sana efficienza e un po' di sani colpi di accetta li abbiamo portati per far funzionare meglio l'INPS e avvicinarlo a tutti i suoi contribuenti e tutti i cittadini. Grazie anche alla professoressa Fornero, grazie al professor Vallacqua, grazie alla regia e grazie anche ai due ascoltatori che non abbiamo potuto chiamare, malgrado l'abbiamo tenuti poi in linea per 3/4 d'ora. L'appuntamento a domani, la linea al giornale radio.